24 mattino. 8 e 17 minuti, buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatori. È il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani sta ridendo. Io come invece al solito, peraltro, temevo aggiungere che tu fossi un po' preoccupata. Perché? O addirittura spaventata. Ma ti conosco da 10 anni, lo ci so, mancherebbe però, altro. Sono entrando sono in studio, ottime non mani, trovando al solito posto la solita figura, tra l'altro bionda. Stamattina che trovo un moraccione. Insomma. Vabbè, dai. No, oggi più che contenta. Dicevo prima, parliamo di un tema che è adatto all'orario, no? È l'ora di svegliarsi. Esatto, infatti noi avevamo preparato con la mia autrice della mattinata, Gaia Romani, proprio un'apertura di questo tipo. È proprio il caso di dirlo ai nostri ascoltatori: svegliatevi, non per ragioni di orario, anche per quello naturalmente, ma perché ci sono 2 settimane di tempo per risvegliare i conti dormienti. Mancano pochi giorni, bisogna capire anche di che cosa si tratta e se si è interessati da questa cosa. E io allora, non credo, sì, esatto. No, tu no, però non è detto, però c'è un nuovo strumento con il quale potresti scoprirlo. Adesso sul sito del Ministero dell'Economia potresti andare ad inserire il tuo nome e magari c'è un rapporto chi con un intermediario per il quale hai qualche dubbio, inserisci i dati e scopri e se dorme o meno. E in quel caso mi devo svegliare. Vabbè. Svegliati con la banca fino al 31 maggio, altrimenti dopo bisogna farlo con il Ministero dell'Economia. E allora, non vorremmo confondere le idee ai nostri ascoltatori, spieghiamo tutto con un certo ordine con Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum e anche il, come dire, l'uomo della finanza e del denaro per questa associazione dei consumatori. Picciolini, buongiorno. Buongiorno, ben risvegliati. Grazie anche a lei naturalmente. Abbiamo preso il caffè già questa mattina tutti insieme, forse anche due. E allora, abbiamo l'ultima chance messa a disposizione da parte del Ministero dell'Economia da via 20 settembre per i correntisti, per farli rientrare in possesso del proprio denaro. Dalla fine di questo mese, infatti, la strada del rimborso resterà aperta per altri 10 anni, ma sarà necessario rivolgersi al Ministero dell'Economia. Stiamo parlando appunto di conti dormienti, un'operazione che è partita 2 anni fa attraverso la disciplina di quel fondo per le vittime delle frodi finanziarie. Il Ministero dell'Economia ha voluto costituire questo fondo come appunto utilizzando tutti quei rapporti con gli intermediari finanziari non movimentati per almeno 10 anni. A che punto è adesso la questione, Picciolini? Allora, siamo al secondo versamento, alla seconda tranche di appunto rapporti non movimentati da 10 anni, quindi parliamo dal 2008, dal 1998. Che cosa sono i conti dormienti? Sono tutti quei conti correnti, quei depositi, quei buoni fruttiferi postali, quelle polizze assicurative, quegli assegni circolari, in quest'ultimo caso non 10 anni ma 3 anni, di cui una persona ha perso le tracce e di cui non ha chiesto più nell'incasso né altre situazioni che appunto potevano essere utili per far capire che ancora conosceva quei dati. Questa è la situazione. Entro il 31 maggio bisogna che chi ha voglia, chi scopre, adesso dirò come, che esiste un conto a suo nome o una polizza a suo nome, deve fare immediata richiesta al proprio intermediario per risvegliare questi conti. Ecco, allora magari spieghiamo subito la modalità con cui si può risvegliare, perché non tutte le modalità sono corrette. Per esempio, un bonifico non è sufficiente? Assolutamente no, diciamo che esistono dei modi in cui è semplicissimo, basta fare una lettera alla banca, parlo ad esempio di un conto corrente in cui si dice so che esiste questo mio conto, oppure andare in banca e fare un movimento, oppure fare una lettera raccomandata. In altri casi invece questo non è sufficiente. Diciamo comunque che la procedura è sostanzialmente semplice, il problema è ricordarsi che appunto esistono questi rapporti. Io penso ad esempio alla situazione in cui è un conto di una persona che ormai purtroppo non è più viva, per cui non ha perso le tracce, perché ricordiamo, Picciolini, mi scusi se la interrompo, che in realtà il sistema bancario, le assicurazioni si sono attivate in questi mesi per comunicare alla potenziale clientela intestataria di questi rapporti dell'esistenza di questi rapporti. Certo. Il tema è che qualcuno probabilmente non è stato raggiunto. Esatto, è un obbligo di legge, è necessaria una forte pubblicità, che chiunque possa pensare di avere un rapporto dormiente. E come si fa? Si fa in maniera molto semplice, esiste un nuovo sito, esisteva già un sito del Ministero del Tesoro in cui si poteva capire come se uno aveva un deposito dormiente o meno. Oggi è stato ancora più semplificato con un nuovo sito www.mef.gov.it /depositi dormienti. So che è complicato a quest'ora di mattina. Vabbè, andiamo sul sito del Ministero dell'Economia, esatto, sicuramente troveremo il modo per accedere. Esatto, la cosa più semplice è andare sul sito tesoro.it, c'è proprio in fondo al sito c'è la voce depositi dormienti, conti dormienti, ed è facilissimo. Basta inserire il proprio nome e cognome, tante volte è sufficiente se non è un nome molto complicato, anche inserire semplice iniziale e verificare se appunto uno rientra in questa lista. Se una persona rientra in questa lista, basta che fa appunto un'operazione come quella che ho detto, dice alla propria banca: guarda che io so che esiste questo conto, oppure fa una lettera e tutto quanto va a posto, il deposito è risvegliato per altri 10 anni. Qual è il problema? Il problema è il dopo, perché dopo esiste ancora la possibilità di risvegliare questi fondi anche se già sono stati girati al tesoro, ma solamente per i conti correnti. In questo caso esiste il normale periodo prescrittivo, che è di 10 anni, per cui uno successivamente, con la lettera al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Economia attualmente e alla propria banca, può risvegliare quei fondi. Ciò non avviene invece per determinati strumenti finanziari. Per determinati strumenti, che sono in particolare gli assegni circolari e le polizze. E le polizze vita, peraltro, inserite da questa prima volta, e vengono inserite anche le polizze vita. Quindi praticamente per le polizze vita che sono, come dire, scadute, non sono state riscattate, sono cadute in prescrizione, queste somme passano automaticamente al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia senza alcuna possibilità di riscatto da nessuno, anche se si scopre di esserne titolari di questo rapporto. Il 31 maggio è l'ultimo giorno per queste due tipologie di rapporto. Per poterli risvegliare. Ci sono i termini prescrittivi, sarà un attimino più complicato, ma sinceramente non più di tanto. Ci sarebbe tutta un'altra rosa di considerazioni da fare a proposito intanto dell'ammontare, come dire, censito. Si tratta di qualcosa come 800 milioni di euro, qualcosa che è molto lontano rispetto alle stime iniziali che le associazioni dei consumatori avevano fatto, confidando ovviamente del... Sì, è vero. Confidando appunto nell'utilizzo di questo denaro per poter risarcire le vittime dei crack finanziari. 800 milioni sono già qualcosa, però so che lei ha dei sassolini nella scarpa, picciolini. Questo denaro parzialmente è già stato utilizzato in teoria. Sì, ormai non si sa più dove sono andati a finire quei soldi. Allora, ricordiamo perché era nato, come diceva giustamente lei, che era per ristorare le persone che avevano partecipato ai crack finanziari, Cirio Parma, Giacomelli e Argentina e chi ne vuole. Bene, questi fondi ormai sono stati dati a tutti meno che a chi ne aveva diritto, salvo, ma ancora non è certo, 100 milioni che saranno dati agli obbligazionisti all'Italia. Sì. Io qui davanti, per curiosità, ho aperto immediatamente il computer quando ho saputo di questa vostra telefonata, e vi dico velocissimamente: allora, questi soldi sono andati alla Social Card, ai rimborsi, ho detto, degli obbligazionisti. Per carità, poi finalità anche nobili. Il prestito incentivi, un prestito per l'istruzione e per garantire l'organizzazione del G8 e l'agevolazione previdenziale degli agricoltori della zona di montagna. Ecco, sono 800 milioni, diventeranno 1 miliardo adesso con questi nuovi versamenti. Le persone che sono state coinvolte nei crack finanziari sono circa 400-500 mila per circa 35-40 miliardi. Ecco, neanche questo che è stato. È una coperta assolutamente del tutto inadeguata, sì, certo. Con molti buchi. Picciolini, adesso intanto l'operazione comunque è andata avanti. L'importante è che chi era titolare di un rapporto dormiente lo abbia risvegliato, quindi sia rientrato in possesso del suo denaro legittimamente. Dopodiché vedremo come la situazione andrà avanti. Noi saremo qui pronti a monitorarla attentamente. La ringrazio, buona giornata. Grazie. E buon caffè. A presto. Grazie a voi. Alessio, io ho terminato. Benissimo, allora abbiamo capito come fare. Come fare per questa. Soprattutto che abbiamo 15 giorni di tempo. Ecco, quindi abbiamo tempo e cosa dobbiamo fare per capire se siamo coinvolti in questa cosa dei conti correnti dormienti. Magari, ma insomma, potrebbe esserci qualche buona tesoretto, notizia. Tesoretto, infatti, che ne sai. Ci fermiamo qua, torniamo, almeno io torno tra pochissimo con le ultime notizie. Grazie Deborah Rosciani. Buona giornata. Tardi. 8:32 minuti, ben ritrovati con 24 Mattino, gentili ascoltatori, Alessio Maurizi per questa mattina al microfono. Le notizie di questa mattina: l'avvocato Mills corrotto da Berlusconi, così scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza di condanna all'avvocato inglese, falso testimone per proteggere Fininvest e Berlusconi. Il Cavaliere ha replicato: riferirò in Parlamento, non mi faccio processare da queste toghe. Intanto l'opposizione chiede che Berlusconi rinunci al lodo Alfa. E poi, per quanto riguarda Fiat, oggi il piano di Marchionne per Opel. L'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, presenterà oggi al governo tedesco il piano per l'acquisizione della casa automobilistica tedesca. Crolla il prodotto interno lordo in Giappone, pensate, il calo su base trimestrale è stato del 4%, su base annua del 15,2%. E poi, per quanto riguarda il Giro d'Italia, si corre oggi l'undicesima tappa, 214 km da Torino ad Arenzano. Ieri altra vittoria nella Cuneo Pinerolo per Danilo Di Luca, la maglia rosa ha incrementato così il suo vantaggio nella classifica generale. 349-238-6666 se volete scrivere i vostri SMS e cominciamo con il primo argomento di questa mattina. Torniamo al G8, il cosiddetto G8 delle università di ieri a Torino, si è chiuso ieri, leggiamo sui giornali, guerriglia intorno al G8 dei rettori, 24 agenti feriti, arrestati due giovani, fini solidarietà agli uomini in divisa, Maroni, attacchi preordinati. E allora, di che cosa si sarà parlato ieri, l'altro ieri, al G8 dei rettori? Cominciamo subito chiedendolo a Francesco Profumo, che è rettore del Politecnico di Torino. Buongiorno. Buongiorno a lei, buona giornata. Lei che è stato tra gli organizzatori di questo evento. Innanzitutto, quando avete accettato di organizzare, di avere la responsabilità esecutiva dell'organizzazione di questo evento, immaginavate che potesse non passare tanto in sordina, anzi che la protesta si sarebbe abbattuta così su Torino in questi giorni? Avevamo certamente la consapevolezza dell'impegno, certamente l'informazione non ha aiutato, l'informazione è un'informazione corretta, mi sembra che sia stata un po' deviata, perché in realtà non si è mai parlato di contenuti, non si è mai cercato di capire il tema dell'incontro, mentre si è voluto spettacolarizzare tutto quello che è avvenuto all'intorno, poi anche con toni che probabilmente non corrispondono alla realtà. Io credo che ci voglia una maggiore consapevolezza sull'informazione, un'informazione più serena ma anche più realistica rispetto a quello che segue. Questo è quello che certamente ho imparato da questa cosa. Certo, e tra l'altro noi siamo qua proprio anche per colmare, se vogliamo, questa lacuna e per parlare di quelli che sono stati anche i temi di questo G8 dei rettori. Però vorrei rimanere anche un po' sulla critica che una parte, almeno nel mondo universitario, degli studenti ha fatto. Perché voi, per esempio, avete detto che nel summit avete coinvolto anche gli studenti. Adesso ci spiegherà come. Ma allora perché sono arrivate queste critiche, che tra l'altro ormai sappiamo puntualmente ogni volta che c'è un vertice arrivano queste manifestazioni? C'è forse anche una critica rispetto a vertici che vengono percepiti come qualcosa che riunisce solo le elite, diciamo, in questo caso del mondo universitario, ma che non investono direttamente, non riguardano magari i problemi più importanti di chi, in questo caso per esempio parliamo di università, la vive? Credo di poterle rispondere con le parole terminali dell'intervento del professor Pei Gang, che è un accademico delle scienze della Cina ed è presidente di una delle più grandi università cinesi, la Tongji. Lui ha fatto un intervento iniziale su una delle 4E che erano i temi dell'incontro, che aveva un tema principale legato allo sviluppo sostenibile e responsabile. Le 4E erano l'etica, l'economia, l'energia e l'ecologia. Ebbene, il professor Gang, che ha fatto questa sua presentazione sull'etica, ha terminato dicendo che oggi i paesi poveri e i paesi ricchi sono sulla stessa barca e debbono remare tutti nella stessa direzione. Bene, credo che questo sia un po' il significato dell'incontro, alla quale hanno partecipato 40 rettori, ma la maggior parte dei rettori apparteneva a paesi in via di sviluppo e quindi c'è stato un tavolo paritario. Tanto per darle la dimostrazione di questo, la dichiarazione finale, che è stata firmata naturalmente da tutti, è stata firmata in ordine alfabetico, quindi senza alcuna differenza tra i rettori appartenenti a paesi G8 e a paesi in via di sviluppo. Tutti sulla stessa barca a remare, è bella questa immagine del relatore cinese. Insomma, nella relazione finale, che insomma, crediamo sia stata approvata ieri, si parla di un uso più efficiente delle risorse, approcci più etici allo sviluppo sostenibile, l'uso delle fonti rinnovabili, una maggiore consapevolezza nell'interdipendenza esistente tra le attività umane e l'ecosistema naturale, tutti temi importanti e a volte sono anche un po' difficile insomma afferrarli così nella loro concretezza. Siete soddisfatti di questo risultato? Insomma, poi voi comunicherete al G8 che ci sarà a Genova i risultati di questo incontro. Cosa chiede il mondo dell'università alla politica? Intanto noi siamo molto soddisfatti del risultato, anche perché abbiamo riportato la discussione su un tavolo negoziale a 360 gradi. Questa è stato uno degli input molto importanti della relazione del professor Monti, riportando questa esperienza dell'Europa su questa capacità di negoziare su argomenti complessi vedendoli diversi aspetti e non settorializzando. E adesso in realtà la dichiarazione termina con tre tipi di raccomandazioni. Un primo gruppo diretto alle università stesse, quindi alle università si dice una maggiore consapevolezza rispetto alla formazione e alla ricerca sui temi dello sviluppo sostenibile e responsabile. Il secondo elemento è la creazione di un centro virtuale per la ricerca e lo sviluppo, per la ricerca e la formazione nello sviluppo sostenibile e responsabile, che mette in comune le esperienze delle università dei paesi in via di sviluppo e dei paesi sviluppati. Insomma, anche un po' un laboratorio da cui far venire fuori delle idee interessanti su questo tema. Salutiamo anche Luca Zaia, Ministro per le Politiche Agricole e Forestali. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Ministro. Allora, ha sentito un po' quali sono i temi sul tappeto da questo punto di vista? Insomma, a volte è difficile, magari, come dicevo prima, afferrarli nella loro concretezza, però sono cose molto importanti. Noi, per esempio, abbiamo sentito nelle ultime settimane parlare di rivoluzione verde di Obama in America. Questi sono i temi. L'Italia come si sta muovendo, Ministro? Poi magari parleremo anche nel dettaglio della sostenibilità della nostra agricoltura. Ci stiamo muovendo bene, visto e considerato che abbiamo organizzato il primo G8 agricolo nella storia. Abbiamo avuto non solo il G8, ma abbiamo avuto anche il G5, quindi Cina, India, Brasile, Messico e Sudafrica, e poi abbiamo allargato questo tavolo ad Australia, Argentina e altre alle organizzazioni internazionali. Questo a dimostrazione del credito che l'Italia ha a livello internazionale. Chiudendo poi questo G8 con una dichiarazione finale che parla di fame nel mondo e parla del fatto che 3 milioni di cittadini nel mondo muoiono di fame, di produzione agricola, di sostenibilità, ma anche facendo sottoscrivere questa dichiarazione ad esempio ai cinesi rispetto alla contraffazione, alla lotta alla contraffazione, non ultimo la speculazione sui mercati e ovviamente bloccare la speculazione negativa sui mercati che ci porta ad assistere a fluttuazioni e volatilità dei prezzi delle commodities che sono insostenibili e inconcepibili. Non le chiedo delle proteste perché mi sembra che non ci sia molto da dire, nel senso che non è che ci sia molto da commentare da questo punto di vista, poi per fortuna la seconda giornata non sembra aver avuto esiti diciamo più di tanto drammatici. Invece sull'agricoltura, insomma, le vorrei chiedere, l'agricoltura italiana è sostenibile da questo punto di vista? Noi siamo costretti ancora a importare molto, un paese come l'Italia che dei prodotti agroalimentari naturalmente fa un cavallo di battaglia. Poi c'è il tema del latte, per esempio, che so che ancora lei si sta impegnando perché arriva latte ancora a bassi prezzi, troppo bassi in Italia rispetto al nostro latte di qualità. Ma guardi, rispetto alle proteste mi lasci dire che è deplorevole non protestare ma distruggere e picchiare gente. Questi sono dei contestatori che non hanno nulla a che vedere con processi democratici e di civile convivenza e vanno puniti, punto. Dall'altro c'è da dire che noi abbiamo un'agricoltura eccezionale, infatti il mondo ci guarda con attenzione, abbiamo 4.500 prodotti tipici iscritti nell'Atlante nazionale, siamo la culla delle denominazioni, dietro alla storia di ogni piccola comunità c'è un prodotto tipico, ma dobbiamo anche ricordare che l'export dell'agroalimentare vale circa 24 miliardi di euro nel mondo. Cresciamo quest'anno del 13% in Europa e dell'11% nei paesi extra-UE, però abbiamo ancora il grande guaio dell'agropirateria. Su 10 prodotti dichiarati made in Italy nel mondo, 9 non hanno mai visto l'agricoltura o l'industria di trasformazione italiana. Pensi al fenomeno del parmigiano reggiano che diventa parmesan nel mondo, della mozzarella di bufala prodotta dai cinesi, di molte altre schifezze che dobbiamo arrestare sui mercati internazionali. Se è vero che il 10% è rappresentato da 24 miliardi di euro, è altrettanto vero che l'altro 90% rappresenta spazi che noi possiamo occupare. Ministro Zaia, noi l'avevamo chiamata anche per parlare di un tema sicuramente meno impegnativo, ma altrettanto, anzi forse sicuramente più popolare. Ieri lei è tornato con il ministro dell'istruzione Gelmini su una, chiamiamola polemica, ma insomma non credo che ci fosse una vera intenzione polemica, però lei ha detto sul dialetto, no? Un'altra volta, voi della Lega, tornate su questo tema, dicendo insegniamolo a scuola una volta per tutte, ci sono interi consigli di amministrazione nel Veneto che parlano dialetto, perché non insegnarlo a scuola? Ora io mi chiedo, finché lo dice chiunque, insomma, uno la prende anche così come una provocazione, ma se lo dice un ministro, allora va preso sul serio. Questo è quello che lei propone al ministro Gelmini? Ma sì, guardi, io ho un bellissimo e perfettissimo rapporto con Maria Stella Gelmini, fra l'altro lo considero veramente un ministro in gamba e sta facendo molto per la scuola. Il fatto che da Veneto, nel Veneto, si proponga questo non è una buttade o la volontà di pensare alla marcorda. Voglio ricordare che 7 persone su 10 vivono, parlano e pensano in Veneto, in maniera trasversale alle classi sociali, come dice lei, l'impresa Benetton fa i consigli di amministrazione in inglese o in Veneto, piuttosto che i lavoratori parlano veneto, e cioè la lingua comune è il Veneto. Del resto 1000 anni di Repubblica Serenissima non si cancellano con una pagina, magari una facciata di un libro di storia, e mi creda che questa è anche una necessità, perché se qualcuno conoscesse veramente da vicino la realtà del Veneto saprebbe che gli immigrati stranieri, noi ne abbiamo il 10% della popolazione ormai, quelli che lavorano e sono integrati parlano tranquillamente e comunemente in Veneto. Tra l'altro i dialetti, lo sappiamo, sono anche in genere molto gustosi. Ci fa un appello a parlare e a usare il dialetto nelle scuole proprio in Veneto? Ma guardi, c'era 20-25 anni fa, io ho 41 anni, ma me lo ricordo perché andavo ancora alle superiori, e c'era un manifesto che diceva parlai veneto anche coi fiori, cioè parlate veneto anche coi fiori. I bambini. ed è la filosofia da portare avanti. Io cito spesso l'imperatore Adriano, che conosco abbastanza bene, nel senso che l'ho letto e l'ho studiato, e lui diceva sempre io ho governato e ho scritto tutte le mie insegne, sui miei palazzi, tutti in latino, però ho sempre vissuto e pensato in greco. E cerchiamo di capire e mutuare questa filosofia. Ministro Zaia, che cita Adriano, l'imperatore Adriano è notevole. Senta Ministro, per chiudere, però non crede che un fatto così vivo e mutevole come il dialetto, rinchiuderlo nell'insegnamento scolastico potrebbe essere addirittura inutile, controproducente, perché insomma dove ci sono più dialetti, per esempio, quale bisognerebbe insegnare? Perché ci sono paesi, posti, l'Italia è piena di questi esempi. Ma guardi, si tratta di valorizzare le comunità. Il Veneto è una comunità di quasi 5 milioni di abitanti che parla la stessa lingua. Può partire da Belluno, arrivare a Rovigo, piuttosto che Verona, Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, tutti parliamo la stessa lingua e tutti capiamo la stessa lingua. Quindi riusciamo a comunicare. Quando si riesce a comunicare vuol dire che è una lingua. E poi le dirò che non abbiamo nulla da inventare, perché ci sono delle comunità che spesso prendiamo come esempio di efficienza e poi ci dimentichiamo che queste comunità magari insegnano la lingua nella scuola. Una per tutte è la Catalogna. In Catalogna c'è un bilinguismo riconosciuto e non mi risulta che abbia fatto del male a quelle comunità. Grazie allora al ministro Luca Zaia, grazie anche al rettore del Politecnico di Torino Francesco Profumo. 8.50 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati con 24 mattina. Come detto, allora, un tema, il lavoro agli italiani. In realtà parliamo ancora una volta di immigrati, se ne parla molto in questi giorni per come limitare l'afflusso dei clandestini soprattutto, ma anche delle norme che riguardano l'integrazione degli immigrati in Italia. Qualche giorno fa sulla stampa locale nel milanese leggiamo una notizia: discriminato perché marocchino. Eppure il bando pubblicato sul sito dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanese, il 6 marzo scorso, lo aveva letto bene: assunzioni per operai Offronzi, unità organizzativa costruzioni e facility management, in cambio dei giusti requisiti. E lui, Mohamed Aleva, 18 anni compiuti lo scorso agosto, famiglia marocchina trasferita in Italia dal 2004, quei requisiti li aveva. E perché allora non è stato assunto? Di mezzo c'è un regio decreto del 1931, qualcuno questa storia l'avrà forse letta anche sui quotidiani nazionali. Allora salutiamo l'avvocato Alberto Guariso, buongiorno. Buongiorno. Presidente tra l'altro dell'associazione Avvocati per Niente. Lei ha preso in cura questo caso, ci spiega che cosa è successo al suo cliente? La questione è questa, appunto: esiste questo regio decreto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico in concessione, e dentro questo regio decreto è rimasto per così tanti anni il requisito della cittadinanza, che evidentemente è un retaggio di quando questi dipendenti erano dipendenti pubblici e di quando il pubblico impiego aveva questa connotazione appunto pubblicistica, connotata da un legame particolare di fedeltà alla nazione. È rimasto lì per tanti anni, nessuno l'ha mai tolto. Effettivamente l'ATM, rifacendosi in maniera restrittiva a questo requisito, continua a indicarlo nei propri bandi. La stessa questione si è posta in realtà recentemente anche nel pubblico impiego in generale, infermiere, pubblici dipendenti, nei quali esiste una norma analoga ribadita ancora più recentemente, ma anche in quel caso molti giudici hanno ritenuto che queste norme siano ormai superate da norme successive, in particolare da una convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 75, che è stata recepita già da molti anni dall'Italia, nella quale è previsto invece il principio di parità assoluta tra lavoratori stranieri e lavoratori italiani, purché gli stranieri siano ovviamente regolarmente soggiornanti. Allora, noi semplicemente riteniamo che questa norma possa, al pari di altre che riguardavano appunto il pubblico impiego, ritenersi implicitamente abrogata da queste norme successive. Ripeto, in altri casi questa stessa tesi è stata accolta e speriamo sia accolta anche in questo caso. Tra l'altro noi avevamo invitato anche l'ATM a partecipare, però una posizione loro avevano già espressa, quindi non hanno voluto ribadirla. Elio Catania, presidente dell'ATM, aveva detto: troviamo difficilmente, tra l'altro prima che questo caso scoppiasse, troviamo difficilmente personale a Milano e in Lombardia, il nostro primo bacino d'utenza è il meridione. E allora qualcuno gli aveva fatto notare: beh, ci sarebbero proprio gli extracomunitari, però c'è questo regio decreto del 1931, e lui aveva detto: va rispettato, però potrebbe valere la pena di rivederlo, visto che ha più di 70 anni, è superato, antistorico, talmente inadatto a gestire aziende moderne orientate all'efficienza per erogare servizi ai cittadini. Tra l'altro un caso del genere c'era già stato, avvocato Guariso, e l'ATM l'aveva in qualche modo ricompreso, perché qui però era un po' diverso, perché c'era un dipendente che era stato riassunto ed era già stato assunto, e anche in questo caso si trattava di un senegalese di 48 anni. Potrebbe essere un precedente al quale vi appigliate? No, ma ripeto, precedenti ce ne sono molti, perché il problema è diffuso, cioè il problema è che ci trasciniamo dietro appunto questa idea che non solo nel pubblico impiego, ricordo che i dipendenti dell'ATM non sono pubblici dipendenti perché l'ATM è una società per azioni, seppur a partecipazione pubblica, ma esiste appunto tutta quest'area di professioni che si trascinano questo problema. Ora, la direzione alla quale bisognerebbe con molta semplicità andare è quella di dire: dove c'è esercizio di pubbliche funzioni, cioè professione, attività che effettivamente hanno una connotazione pubblicistica, può ancora aver senso il requisito della cittadinanza. In tutte le altre professioni, che sia condurre l'autobus, che sia essere il portiere dell'ASL, il bidello o l'insegnante o qualunque altra attività, questo requisito va tolto. Tra l'altro, riteniamo che sia già tolto, questo è il punto. Tra l'altro, insomma, diciamocela tutta, è opinione diffusa nel mondo delle imprese, ma non solo, che l'impiego della manodopera straniera sia davvero importante in Italia. Pensiamo alle badanti, alle colf, agli allevatori indiani, alle fabbriche, all'edilizia e speriamo anche alle aziende del trasporto. È il Parlamento che deve intervenire a questo punto. Lei vuol fare un appello in 20 secondi perché siamo in chiusura. Riteniamo che già oggi si possa considerare superata la legge alla luce dell'ordinamento e su questo deciderà il giudice. Certamente invece di complicarci la vita, certo, con cause, la un cosa intervento più semplice è che intervenga il Parlamento dicendo questa norma è superata anche nell'interesse delle aziende, le quali ovviamente questo è diversamente dai datori di lavoro diciamo normali, qui non stiamo dicendo che deve essere assunto Tizio Caio, stiamo semplicemente allargando il riferimento all'interno del quale, secondo criteri di efficienza e di capacità, l'azienda che fa un concorso, anche la TM fa i suoi concorsi, poi sceglierà le persone più capaci, senza discriminare a priori in base alla cittadinanza, cosa che non ha nessuna rilevanza ai fini dell'efficienza del servizio di trasporto o di un altro servizio pubblico. Ce l'auguriamo. Grazie, avvocato Alberto Guariso. Ci fermiamo qua anche per oggi. Un ringraziamento ad Alessandro Marco Tulli, Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Adesso ci sono le notizie del giornale radio e poi la linea Giuliano Ferrara.